America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. There's never been a better time in history to be born female. Hillary Clinton, candidato chiacchierato ma non annunciato ancora per la nomination del Partito Democratico ieri alle Nazioni Unite, ha parlato di donne, ve lo ricordo, alle Nazioni Unite si sta parlando delle sfide che riguardano le donne nel mondo, dei drammi che molte di queste donne continuano a vivere, e questo intervento di Hillary Clinton ha fatto il punto. Tra l'altro c'era un parallelo con un intervento che fece 20 anni fa in Cina, in cui cercò, in questo discorso, quando era First Lady degli Stati Uniti, di lanciare una sfida proprio per l'emancipazione femminile. E Hillary dice: questo è il momento migliore per nascere donna, il momento migliore per essere donna, rispetto ovviamente a quello che succedeva 20 anni fa, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Un messaggio dunque, come dire, di sfida e positivo allo stesso tempo, ma un messaggio che improvvisamente rischia di non avere molta credibilità. Perché? Beh, perché per Hillary Clinton ci sono stati negli ultimi giorni dei seri problemi dal punto di vista dell'immagine. E cioè, per esempio, ma da quale parte della barricata si trova? Dalla parte appunto delle donne o dalla parte dei paesi che hanno fatto donazioni per decine di milioni di dollari alla fondazione che le guida col marito e che discriminano contro le donne? E un articolo sul New York Times ha messo in evidenza appunto questo apparente conflitto di interesse, questa apparente contraddizione. Da una parte lei è la paladina delle donne, dall'altra riceve fondi da questi paesi, che sono poi paesi come l'Arabia Saudita, come i paesi del Golfo, che trattano le donne in modo discriminatorio. Ma c'è un altro problema con cui Hillary Clinton si deve confrontare. Da che parte è, di nuovo? Dalla parte di chi vuole la trasparenza delle comunicazioni ufficiali di funzionari dello Stato o dalla parte di quelli che invece privilegiano la segretezza o, peggio, l'elusione? Perché vi dico questo? Perché, come avrete sentito, Hillary Clinton la settimana scorsa è stata al centro di uno scandalo, chiamiamolo così, l'email gate, e cioè si è scoperto che tutte le email che lei inviava o riceveva quando era segretario di Stato in realtà erano gestite dal suo server privato localizzato a Chacapa, vicino a casa sua, upstate New York. Sentiamo Hillary Clinton. And with respect to the foundation, I am very proud of the work the foundation does. I'm very proud of the hundreds of thousands of people who support the work of the foundation and the results that have been achieved for people here at home and around the world. Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, dice Hillary. Con la nostra fondazione, i paesi che ci hanno fatto le donazioni sapevano benissimo qual è la mia posizione in materia di diritti delle donne. Beh, diciamo qui Hillary cerca di cavarsela, ma secondo me non so fino a che punto ci resta, perché ribalta l'equazione, cioè dice: no, il problema non è nostro che prendavamo danaro da questi paesi che discriminano nei confronti delle donne. In realtà noi abbiamo chiarito che vogliamo lavorare per le donne, perché queste discriminazioni cadano, e se questi paesi ci danno dei soldi, bene che ce li diano pure, perché vanno al lavoro per la causa delle donne. Sentiamo Hillary come risponde all'obiezione, all'accusa che non ha usato le email del Dipartimento di Stato. When I got to work as Secretary of State, I opted for convenience to use my personal email account, which was allowed by the State Department, because I thought it would be easier to carry just one device for my work and for my personal emails instead of two. Ecco, Hillary Clinton sull'email gate dice che l'unica ragione per la quale io ho usato questo server privato era una ragione pratica: avevo già questa mia email e non volevo avere due strumenti diversi, due telefonini diversi, due iPad diversi, due computer diversi per poter gestire delle email diverse, soprattutto quando ero in movimento. Era molto più semplice per me avere un solo telefonino, e visto che avevo già questo account, beh, forse con leggerezza, lo ammetto, e se dovessi pensare in retrospettiva, beh, magari non l'avrei fatto. Però è andata così, non c'erano secondi fini, era soltanto per una questione pratica. Ho dato la bellezza di 30.000 email di lavoro, ma non ho dato 25.000 email circa che sono private. Ecco, quindi qui Hillary fa la distinzione tra il fatto che lei usava lo stesso server per email private E ha spiegato anche quali erano queste mail private, per esempio la preparazione del matrimonio di mia figlia Chelsea, oppure la preparazione dei funerali di mia madre. Ecco, queste sono email strettamente private, non devono in alcun modo rientrare sotto la sfera del governo federale. E è vero, avrei dovuto tenere forse queste email separate, però poi le ho separate io perché la legge mi consente di farlo, e dunque ho dato le email di lavoro ai parlamentari repubblicani che me le chiedevano, ma ho tenuto le altre. Ecco, questo è il punto su cui Hillary però scivola un pochino. Perché? Beh, come ha detto lei stessa, sceglie lei, non scelgono gli altri. E ci sono delle email, abbiamo saputo, che sono così borderline, come si dice in America, sono un po' al confine, sono di lavoro e sono private. E dunque si danno o non si danno? Ma soprattutto i parlamentari repubblicani, che hanno sollevato per primi la questione, chiedono di avere una serie di email che non hanno ancora trovate relative alla vicenda di Benghazi. Ricorderete quando ci fu una dimostrazione di estremisti islamici vicino a Benghazi, attaccarono l'ambasciata americana, uccisero l'ambasciatore americano e il Dipartimento di Stato finì sotto accusa per non aver immediatamente mandato degli aiuti militari che potessero proteggere l'ambasciata. Ecco, su questo terreno Hillary Clinton potrebbe trovarsi un pochino in difficoltà, perché lei sta correndo per le presidenziali, lo annuncerà ad aprile, naturalmente non subito, però vuole diventare commander in chief, ed ecco che su quell'operazione militare i repubblicani l'attaccheranno ferocemente. Ecco, queste le risposte di Hillary Clinton, come io ho detto non troppo convincenti. Inoltre c'è un terzo argomento che riguarda il quadro di Nelson Shank, un pittore di oltre 70 anni che era stato scelto per fare il ritratto ufficiale di Bill. Ebbene, che scherzetto gli ha combinato questo signore? Ha fatto il ritratto del presidente con una specie di ombra che appare sopra il camino, e quest'ombra, poi lui ha spiegato, è il simbolo del vestito blu di Monica Lewinsky, che così è rimasto un po' come un'ombra su tutta l'amministrazione. Beh, devo dire, forse poteva risparmiarselo. Non solo, ma il pittore non ha messo la fede al dito di Bill. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.